Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Riparare un sistema nervoso danneggiato, ripristinando centinaia o magari migliaia di delicate connessioni tra i neuroni in modo che possano riprendere a condurre segnali elettrici, quegli stessi che alla fine governano gran parte delle nostre percezioni e delle nostre azioni. È uno di quegli scenari che la fantascienza ha riproposto, direi in tutte le salse possibili, e che tuttavia, passo dopo passo, sta iniziando ad assomigliare sempre di più a una possibilità concreta. Ebbene, la ricerca di cui parliamo stasera è senz'altro uno di quei passi, e questo però lo dirà il tempo, magari anche uno di quelli importanti. Diamo subito il benvenuto alla professoressa Laura Ballerini. Buonasera. Buonasera. Allora, neurofisiologa, medico di formazione, attualmente lei è in forza alla SISSA di Trieste e insieme al chimico Maurizio Prato dell'Università di Trieste lei è la principale autrice di questa ricerca con la quale avete dimostrato che un materiale particolare, una spugna di nanotubi di carbonio, è in grado, diciamo, di attivare o perlomeno di favorire la ricostruzione di un tessuto nervoso danneggiato. Questo è un po', diciamo, il succo in poche parole. Ecco, partiamo da questo materiale intanto. Di che cosa si tratta? Cos'è questa spugna di nanotubi di carbonio? O nanospugna di... non so come dire. Spugna di nanotubi di carbonio. Vabbè. Questo è un materiale tridimensionale, come uno scaffold, come un'impalcatura, costruito da questi tubi, effettivamente, che sono un nanomateriale d'avanguardia come proprietà fisico-chimiche. Sono piccolissimi. Sì, sono un milionesimo di capello, questo è il genere di dimensione che si dà, pochi nanometri, e quindi assomigliano come morfologia e come dimensione alle fibre terminali dei nostri neuroni, le fibre più sottili che fanno le reti che poi guidano il comportamento. Ecco, voi avete creato un materiale, diciamo, spugnoso, fatto con questi nanotubi che, diciamo, non so se troviamo una specie di tessuto non tessuto, per esempio, possiamo immaginare una cosa di questo genere? Esattamente, è una specie di rete artificiale che può generare, l'obiettivo è quello di avere un ibrido tra il materiale artificiale e i neuroni. Perfetto. Che recuperi funzione. Ecco, avete questa spugna, questo materiale, poi saranno quantitativi piccolissimi, dove l'avete messa, che cosa siete riusciti a farci? Allora, il materiale è stato appunto generato da un gruppo di fisici di Roma in collaborazione con Maurizio Prato, che è il gruppo di Maurizio De Crescenzi, e quello che abbiamo fatto è stato di far crescere i neuroni interfacciati e ibridati con questo materiale e vedere che era in grado di guidare la ricrescita delle fibre nervose e il ricollegamento di strutture separate sperimentalmente in vitro. Ecco, quindi sbaglio a dire che l'avete inserito all'interno di un essere vivente, avete visto che funziona da questo punto di vista? O è solo una cosa che avete fatto in vitro, come si dice, cioè in una situazione totalmente artificiale? In vitro abbiamo studiato la capacità di ricrescita delle fibre, che viene monitorata ora per ora, per così dire, e misurata funzionalmente con tecniche invasive. In vivo, quindi nell'animale, abbiamo monitorato la biocompatibilità. Qual è, come dire, la chiave? Perché questo materiale funziona così bene? Siete riusciti a capirlo? E che cosa fa? Allora, è un materiale che con Maurizio Prato studiamo da più di 10 anni perché promuove un potenziamento della formazione delle connessioni nervose, riesce ad avere un grande tropismo per i neuroni. Che vuol dire? Vuol dire che le fibre nervose seguono volentieri la struttura del materiale e vi si arrampicano per crescere. Come dei rampicanti, perfetto. Come dei rampicanti su una rete. E formano più connessioni funzionali. In un neurone non basta che ricresca la fibra, poi deve parlarsi col neurone successivo, altrimenti non serve a niente. E quindi il perché è legato probabilmente alle proprietà chimiche, alle proprietà fisiche, la conducibilità elettrica, la morfologia, le dimensioni, è qualcosa che ancora non abbiamo acchiappato dal punto di vista funzionale, hanno un effetto molto forte, sì, però funziona, questo è il dato che di non fatto. È male. Che non è male. E questo è stato coperto in una decina d'anni di studi congiunti interdisciplinari. Non l'avevamo mai provato nella struttura tridimensionale, con un tessuto vero tridimensionale, non l'avevamo mai provato e nessuno l'ha mai provato prima in vivo, cioè cosa succede a quel tessuto quando io veramente faccio una sfida e ci metto il materiale. Ecco, questa tridimensionalità in realtà era obbligatoria per poter pensare di uscire dal laboratorio ed entrare in una situazione reale, perché noi esseri umani siamo tridimensionali e lo è il nostro sistema nervoso. Il cervello non è piatto, almeno si spera. Ecco, si spera, tranne quello di alcuni personaggi. C'era questo passaggio tridimensionale obbligatorio e l'altra cosa da verificare era che non facesse male. Questi topi stanno bene dopo varie settimane che hanno impiantato questo materiale, se ho ben capito. Proviamo a parlare di tempi di sviluppo, tempi di trasferimento tecnologico, sempre che tutto poi vada bene. Ecco, quanto ci potrebbe volere a trasferire nella clinica, quindi nell'applicazione medica? Lei è un medico di formazione, questo tipo di ricerche. Allora, sì, sono un medico di formazione, ma mi occupo di ricerca di base. Questa è ricerca di base, quindi non le so rispondere in buona sostanza di quali sono i tempi. So che lo sviluppo di queste idee è crescente, sempre più forte, e c'è sicuramente una spinta in avanti positiva. Tradurla in quando e cosa funzionerà, questo non lo posso proprio dire. Sarebbe poco onesto, ecco, quindi diciamo, insomma, non telefonate domani alla Ballerini perché non è in grado di fare miracoli. Va bene, grazie Ballerini e avanti così. Grazie mille, buonasera. È tutto, a domani.